Sarò una persona nuova. Ciò che mi fa più bene. giornale del lavoro, per lavoro. Assalto, data vecchia di licenza, assalto, ennesimo vagone postale, assalto, un altro centro sociale. Necessità.